Adesso è ora di riascoltare tutti i dialoghi di questa unità. Domenica 6 settembre, a mezzogiorno, all'obelisco in Piazza della Repubblica. Pronto? Lorenzo? Sì? Sara? Pronto? Non sento. Sara, mi sente? Sì. Ma da dove chiama? C'è molto rumore. Lorenzo, I'm at the police station. Please come here. Alla polizia?